Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Parte dunque la nuova legislatura al Parlamento europeo di Strasburgo dopo il voto. Questa mattina l'insediamento con gli euroscettici in aula che hanno voltato le spalle all'inno alla gioia, all'inno europeo, all'avvio dei lavori. E poi la prima decisione, Martin Schulz ancora presidente del Parlamento europeo. Ma andiamo subito a Strasburgo perché è solo all'inizio questa giornata per raccontarci come sta andando Beda Romano. Sì, buongiorno. Beh, questa mattina il Parlamento, che si è riunito per la prima volta dopo le elezioni del 22 e 25 maggio, ha eletto alla presidenza Martin Schulz, un socialdemocratico tedesco, noto ormai perché è stato presidente dell'Assemblea già per 2 anni e mezzo, quindi era il presidente uscente. È stato votato da una grande coalizione di socialisti, di popolari e di liberali, e ha avuto prima della sua elezione un brutto episodio. Al momento delle note dell'inno europeo, una parte dell'Assemblea, i deputati più euroscettici, più radicali, hanno girato la schiena allo scranno del Presidente per dimostrare la loro opposizione al progetto europeo. Evidentemente questa loro reazione ha provocato non poche critiche da parte degli altri deputati. Tra oggi e domani il Parlamento dovrà decidere altre cose di questo tipo burocratico-istituzionali. I deputati eleggeranno 14 vicepresidenti, 5 questori e soprattutto dovranno decidere la composizione delle varie commissioni parlamentari. Non è un aspetto banale perché dall'importanza numerica delle varie commissioni capiremo di più quali sono i temi importanti agli occhi dei deputati di questa legislatura. E quindi anche quali saranno i temi, i primi temi all'esame di questo nuovo Parlamento. Grazie a Beda Romano, naturalmente continueremo a raccontarvelo. Intanto, mentre il Parlamento europeo si riunisce per la prima volta dopo il voto, proprio oggi sono stati diffusi i dati sulla disoccupazione in Europa. Piccoli segnali di miglioramento per il mercato del lavoro in Europa. La disoccupazione a maggio ferma la sua corsa nell'area euro e resta stabile all'11,6% su base mensile, con 28.000 unità in meno di disoccupati in termini assoluti. Nell'Europa a 28 invece cala dal 10,4 al 10,3. E una diminuzione c'è in entrambe le aree su base annuale. Migliora anche il tasso di disoccupazione giovanile, che nell'area euro passa dal 23,4 al 23,3. E del resto, a riconoscere questa inversione di tendenza, seppur timida, era stato ieri anche il rapporto trimestrale della Commissione europea, secondo il quale il mercato del lavoro in Europa si sta gradualmente riprendendo, anche se restano alcuni nodi da sciogliere. Tra questi, i più critici, la disoccupazione di lunga durata che continua a crescere e le difficoltà per i giovani e le donne, tutte sfide che l'Europa deve considerare come prioritarie. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Due sentenze oggi dalla Corte di Strasburgo. Gli agenti colpevoli negli atti di violenza avvenuti nel carcere di San Sebastiano di Sassari nell'aprile del 2000 non hanno ricevuto pene proporzionali al reato commesso. La Corte europea dei diritti umani ha così condannato l'Italia per aver sottoposto a trattamento definito inumano e degradante Valentino Saba, uno dei detenuti. Assolta dalla Corte invece la Francia, la legge francese che impone il divieto di portare il burqa in quanto vieta di nascondere integralmente il viso, non viola il diritto alla libertà di religione né quello al rispetto della vita privata, ha stabilito la Corte europea di Strasburgo. E sul fronte diplomatico l'Unione Europea condanna nel modo più forte l'uccisione dei 3 ragazzi israeliani rapiti, un atto barbarico la cui notizia è stata appresa con profondo dolore, ha fatto sapere l'alto rappresentante europeo Catherine Ashton, che ha invitato alla moderazione di tutte le parti coinvolte per non aggravare ulteriormente la fragile situazione sul terreno, ha detto dopo il blitz israeliano scattato nella notte e il timore ora di altre ritorsioni. Confidiamo, ha concluso la Ashton, che il responsabile di questo atto barbarico vengano rapidamente portati davanti alla giustizia. Per il momento l'appuntamento con l'Europa si conclude qui, ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Vi ricordo, l'Europa Radio 24 torna anche ad effetto notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.